Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Roma, 2 aprile 1970. Il delitto di Carla Gruber tra il boia di Albenga e i misteri di Piazza Fontana. Il 2 aprile del 1970 giunse al procuratore della Repubblica di Roma una lettera nella quale Luciano Luberti, conosciuto anche come il boia di Albenga per i suoi trascorsi nazisti durante la guerra nella cittadina ligure, informava che nell'attico di via Pallavicini 52, al quartiere Portuense, si trovava il cadavere di una donna morta da 3 mesi. Quella donna si chiamava Carla Gruber ed era stata la sua amante. La polizia, arrivata nell'appartamento, scoprì che la donna era stata uccisa da un colpo di pistola al cuore, una Browning calibro 7.65, e giaceva sul letto della camera matrimoniale chiusa a chiave con le fessure sigillate da nastro adesivo, mentre per tutta la casa, in estremo disordine, erano sparsi barattoli di deodoranti. Precauzione necessaria quest'ultima, per impedire che il cattivo odore del cadavere in disfacimento arrivasse alle scale del condominio. In quei 3 mesi trascorsi dall'uccisione, perché tale fu, nonostante Luberti dichiarasse che si trattava di un suicidio dettato dalla grave malattia della donna affetta da tubercolosi, in quei 3 mesi Luberti l'avrebbe vegliata davanti alla porta chiusa come davanti a un sacrario. Lasciò infatti l'appartamento solo una decina di giorni prima del ritrovamento del cadavere, al quale erano dedicate alcune scritte, col gesso sul muro. Tipo, cosa potevo fare di più per te, mia regina? Ora mi resta solo da eseguire quello che mi hai ordinato. È un foglietto che certificava. Oggi, 20 maggio, alle ore 16, chiudo la porta come mi hai ordinato. L'intera scena era espressione dell'esaltazione dell'uomo che non aveva mai ripudiato le sue idee naziste e della sua furbizia, frutto di una grande esperienza legale che, dopo il processo per omicidio di Carla Gruber, lo avrebbe portato prima in carcere e poi al procurato manicomio criminale per presunta incapacità di intendere e volere che gli avrebbe consentito di tornare in libertà dopo solo 12 anni. È certo comunque che Luciano Luberti aveva perso la testa per Carla Gruber, una donna bellissima, profuga dalmata e come tale proveniente dalla comunità degli esuli istriani, fiumani e dalmati abitanti al villaggio Giuliano Dalmata, alle porte di Roma. Sposata a Mario Bazzarini, anche lui profugo da Pola, madre di 3 figli, conobbe Luberti quando questi, necessitando di una segretaria, la richiese all'opera assistenza profughi Giuliani Dalmati, che gliela fornì. Da quel momento il suo destino cambiò radicalmente, al punto che nelle diverse fasi della loro tormentata relazione Carla abbandonò la famiglia per andare a vivere con i Luberti fino al tragico epilogo. Aggiungo per questo fattaccio anche una testimonianza personale, essendo io fiumano, appartenente come Carla alla stessa comunità di profughi del villaggio Giuliano Dalmata di Roma. Pochi giorni prima del ritrovamento del cadavere, io come altri abitanti del villaggio, ricevetti uno strano biglietto di Luberti che riproduceva una foto dello stesso con Carla Gruber ripresi mentre si baciavano sulla bocca appassionatamente. E a penna di pugno di Luberti una scritta: si dispensino i coccodrilli dalle lacrime e gli amici dalle condoglianze. Noi fummo e siamo orrendamente felici. Naturalmente non potevo immaginare che in quello stesso momento l'uomo stava vegliando il cadavere della sua amante. Lo scoprii dopo. Pensai solo che a mandarmi quel biglietto era un uomo impazzito. Diego Zandel, in libreria con Essere Bob Lang, edito da H. 226 pagine, 14 euro. Per riascoltare e scaricare tutte le storiacce d'autore, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, sul blog Storiacce, su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend.